Il punto di Stefano Folli. La settimana che vedrà il primo giorno del nuovo Parlamento e l'elezione dei due presidenti si apre con una doppia notizia. Da un lato Berlusconi convince i suoi seguaci a non scendere in piazza contro la magistratura tagliando le unghie ai falchi. E dall'altro Grillo chiude la porta a qualsiasi appoggio a un ipotetico governo Bersani e non lascia spiragli. E allora? Logica vorrebbe che a questo punto PD e PDL aprissero una discussione fra loro per vedere se almeno si può trovare un accordo per eleggere il vertice di Camera e Senato. Invece Bersani guarda ancora i 5 Stelle per dire che dovranno rispondere di queste loro decisioni davanti agli elettori. Vuol dire che l'unica strategia del Partito Democratico comporta l'immediato ritorno alle urne, senza riforme e senza nemmeno cambiare la legge elettorale? Beh, è bene che si faccia presto chiarezza su questo punto.